Salva Danaio di Deborah Rosciani. Deborah Rosciani, buona giornata a tutti e benvenuti a Salva Danaio ad una nuova puntata. Allora, oggi ritorniamo a parlare di mercati finanziari, anche se di un argomento abbastanza circoscritto. Negli ultimi 10 giorni sono finiti di nuovo sulle montagne russe, a Piazza Affari in particolar modo, ma non solo, i titoli del settore bancario. Ci sono state diverse motivazioni, intanto l'attesa per gli esiti, i risultati dei nuovi stress test sulle condizioni finanziarie delle banche europee, che peraltro hanno già messo in evidenza una nuova forte necessità di rafforzamento patrimoniale per le banche irlandesi, laddove lo Stato peraltro ha già ricapitalizzato pesantemente, nuovi capitali per almeno 24 miliardi di euro. Quindi le banche europee non sono ancora fuori dalle secche della crisi recente, ma ciò che ha attirato maggiormente ed inevitabilmente l'attenzione in Italia sono state le annunciate manovre, in certi casi anche a sorpresa, sul capitale delle banche quotate a Milano. A parte rarissime eccezioni, i maggiori istituti di credito italiani sono pronti a varare corposi aumenti di capitale dopo i ripetuti inviti in questo senso da parte del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ma anche per un altro motivo, perché ormai è dietro l'angolo l'appuntamento con Basilea 3, che obbliga le banche a standard patrimoniali molto alti e molto severi, onde evitare che altre crisi future, speriamo non gravi e non serie come quella che abbiamo visto negli ultimi 3 anni, mettano a repentaglio il sistema finanziario, proprio come è accaduto dopo lo scoppio della crisi dei mutui subprime. E allora, in tutto questo, come si stanno muovendo le banche italiane? Tra l'altro, proprio nel giro di poche ore dovrebbe arrivare la formalizzazione della decisione da parte di Banca Intesa San Paolo, che è pronta a varare un'operazione straordinaria sul capitale da 5 miliardi di euro. Ma oltre a questa e oltre a quelle delle quali abbiamo parlato negli ultimi giorni, UbiBanca che necessita di 1 miliardo di euro, c'è l'opzione, l'ipotesi per Monte dei Paschi. Insomma, chi è pronta a ricapitalizzarsi e in che misura, quanto denaro chiede al mercato? Cosa significa aumento di capitale? Cosa fa in queste circostanze piccoli e grandi azionisti, e perché gli annunci di aumento di capitale, di aumenti di capitale, fanno scendere in borsa così tanto i titoli come abbiamo visto negli ultimi giorni? Oggi per esempio c'è ancora un calo per quasi tutti i titoli del settore: Monte dei Paschi meno 0,7, UbiBanca meno 0,7, Banco Popolare meno 0,57, Unicredit, che peraltro non dovrebbe effettuare nessuna operazione, perde comunque mezzo punto, Intesa sulla parità in questo momento. Insomma, su tutti questi temi stamattina ci interrogheremo. Ovviamente potete come sempre intervenire chiamandoci all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Con chi intratterremo la nostra conversazione questa mattina? Intanto con Marco Sticchi, portfolio manager di Nemesis Asset Management, che saluto. Buongiorno Sticchi e benvenuto a Salvadanaio, perché lo ospitiamo per la prima volta in collegamento con noi da Londra. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Grazie anche ad un'altra new entry per la nostra trasmissione, quella di Riccardo Alaimo, fund manager, gestore di Norvega SGR. Buongiorno anche a lei. Buongiorno anche a lei e a tutti i radioascoltatori. E allora, grazie, insomma, sentiremo le analisi che stanno facendo gli analisti e i gestori su questo tema in questo momento. Qual è la view, quali sono le prospettive del settore bancario italiano, che comunque poi si può dire tutto quello che vogliamo, ma in quanto a conseguenze della crisi recente, quantomeno la solidità dimostrata dal settore bancario, anche con tantissimi problemi, appunto, è stata ormai l'elemento sicuramente di interesse maggiore nel contesto appunto internazionale, del quale si è discusso molto, ma almeno di questo possiamo un po' vantarci in Italia. Allora, prima di partire con l'analisi su questo argomento, andiamo a vedere un po' la borsa stamattina cosa sta facendo. Abbiamo già sentito qualche anticipazione, come facciamo sempre nel corso del giornale radio. Oggi ancora una volta monitoriamo le borse europee, perché abbiamo l'ennesimo intervento, si sono ripetuti ogni giorno in queste ultime settimane, un nuovo intervento di un'agenzia di rating. Stamattina è Moody's ad intervenire. Moody's ha abbassato di una tacca la nota di debito a lungo termine del Portogallo, portandola a BAA1 da A3, e quindi rating ancora sotto osservazione per possibili ulteriori declassamenti. Diciamo che la borsa ormai trascura anche queste decisioni, le ha ampiamente digerite. Ormai questi paesi sono considerati appunto ad elevato rischio, rischio finanziario per l'Irlanda, potrebbe essere necessario un nuovo intervento nel contesto europeo per appunto rafforzare un po' la solidità finanziaria di questo paese, così come si è investito, come si è fatto appunto sulla Grecia. Vedremo anche sul Portogallo, insomma, cosa sarà necessario fare. Di fatto le agenzie di rating stanno continuando a sostenere che i titoli del debito sovrano appunto di questi paesi sono sempre più a rischio. Ricordiamo che per quello che riguarda i titoli appunto irlandesi abbiamo superato la soglia del 10% di rendimento la scorsa settimana. Il quadro di Piazza Affari: abbiamo il FTSE MIB in ribasso dello 0,14%, oggi sta tornando a scendere pesantemente Parmalat, meno 4%, si ferma l'appeal speculativo sul titolo di Collecchio. Lactalis, il gruppo, la multinazionale francese, vuole la svolta. O la conquista del gruppo o addio. Il gruppo francese ha depositato peraltro al Tribunale di Parma la richiesta di sospensiva della delibera di rinvio dell'assemblea degli azionisti che era in programma per i prossimi giorni, ma che appunto gli azionisti appunto di controllo di Parma hanno deciso che si farà a questo punto a giugno, dopo il decreto salva imprese appunto italiane che è stato varato dal governo nei giorni scorsi. Quindi una situazione che si fa sempre più ingarbugliata, e oggi il titolo appunto scende anche per queste ragioni. Fra gli altri ribassi, Finmeccanica meno 1,93, Impregilo meno 1,67, Prismian meno 1,57%, sale invece di quasi 3 punti STM. Il gruppo risente positivamente di un'operazione americana annunciata e nottata. Il produttore statunitense di componenti elettronici Texas Instruments ha acquistato il produttore di chip National Semiconductor in California, un'operazione in contanti da 6,5 miliardi di dollari che rimette un po' in moto anche il risico nel settore e che quindi STM saluta favorevolmente. Poi Ansaldo più 1,64, Diasorin più 1,24, Fiat più 1,22%. Euro su dollaro 1,41,61. Questo è il quadro di questa mattina. Noi però oggi ci concentriamo un po' su quello che è successo sui titoli bancari negli ultimi giorni. Banche ancora nel mirino a Piazza Affari. Il mercato è tornato a ragionare sull'eventualità che gli istituti italiani abbiano bisogno di ricapitalizzazioni, dopo che per prima UbiBank, a sorpresa, ha annunciato un aumento di capitale fino a 1 miliardo. E nel giro di pochi giorni le indiscrezioni hanno coinvolto altre banche. Per prima la Popolare di Milano, che per il momento ha dichiarato di non averne necessità, così come Unicredit. Al lavoro invece i grandi soci di Monte dei Paschi, che sarebbe invece sul punto di lanciare un aumento di capitale da 2 miliardi di euro, operazione necessaria per rinforzare la struttura del gruppo e ripagare i Tremonti Bond sottoscritti dopo la crisi finanziaria degli anni scorsi. Obiettivo di Intesa San Paolo, che ufficializzerà oggi la propria decisione, è una ricapitalizzazione da 5 miliardi, una somma che metterebbe al riparo il gruppo nei confronti dei coefficienti di patrimonializzazione richiesti da Basilea 3. Se infatti la recente corsa all'aumento sembra aver spaventato il mercato, che ha penalizzato i titoli in borsa, da molti è vista soltanto come un'azione preventiva per rafforzare il proprio patrimonio, come sollecitato più volte anche dallo stesso governatore Draghi. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Stanno già cominciando ad arrivare alcuni messaggi. Molto interessante l'indicazione che ci offre come sponda Salvo al 349 238 6666, che ci chiede: per favore, mi chiarite una volta per tutta che cos'è il core tier, è meglio alto o basso, e perché il Banco Popolare scende nonostante l'aumento di capitale già fatto. È vero, lo ha concluso, lo ha 2 miliardi, lo ha fatto finalizzandolo alla restituzione, Salvo, dei Tremonti Bond, una restituzione già fatta, perché quello dello Stato è stato un prestito molto costoso per le banche appunto che l'hanno sottoscritto. E comunque, insomma, domanda molto interessante a cui risponderemo questa mattina. Però, insomma, prima di tutto vorrei fare un commento in termini generali rispetto a tutto questo movimento di banche che abbiamo avuto negli ultimi giorni, le ripercussioni in borsa, gli aumenti di capitale. Marco Sticchi, intanto le preannuncio già che io sbaglierò l'accento sul nome della sua società per tutta la giornata, per cui abbia pazienza. Nemesis, ho detto bene adesso? Giusto, sì. Esatto, mi viene di mettere l'accento appunto nella seconda I. Allora, qual è la sua view sul settore bancario italiano? Cosa si dice a Londra, Sticchi? Sì, questi sono aumenti di capitale molto pesanti che vengono annunciati. Il problema è che potrebbero, è molto probabile che non siano gli ultimi, ma sia solo il primo round di aumenti di capitale. Pensiamo al fatto che i vari sistemi bancari europei sono a punti diversi di questo processo di cambiare la struttura del capitale e renderla sempre più sicura, no? secondo le regole di Basilea 3. Per esempio, le banche svizzere sono a livelli di Core Tier 1 intorno a 13-14% e così anche le banche britanniche. E allora, per tornare alla domanda dell'ascoltatore prima, un Core Tier 1 più alto è un indicatore di solidità della banca. È quasi un po' come se fosse la cassaforte. A livelli dell'8%. E dobbiamo considerare che nei prossimi anni, a cominciare il primo vincolo di Basilea 3, arriva nel 2013, però poi il vincolo sale gradualmente fino al 2019, quindi questo livello medio di capitalizzazione delle banche italiane è destinato a salire, quindi ci saranno ulteriori aumenti di capitale nei prossimi anni. Ecco, quindi se potessimo dare una definizione del Core Tier 1 per renderla molto comprensibile ai nostri ascoltatori, Sticchi, possiamo proprio dire che è come se fosse il salvadanaio della banca stessa, no? Quella che, esatto, la mette a riparo da possibili crisi. Quindi, a fronte di crisi imponenti come quella che ci ha travolto negli ultimi anni, la banca mette un po' da parte del denaro, naturalmente, per poi fronteggiare. Adesso può sembrare una definizione estremamente banale, però effettivamente è quanto rispetto, insomma, alla dotazione patrimoniale complessiva la banca deve accantonare per far fronte a situazioni molto problematiche come quelle che abbiamo visto negli ultimi anni. Sì, esattamente questo è il concetto. E infatti, allora, adesso le nostre banche viaggiano intorno ad un Core Tier 1 dell'8-8,5%, che peraltro da molti viene definito proprio un obiettivo assolutamente minimo, proprio in virtù del ragionamento che Sticchi ci ha fatto. In Europa si viaggia su livelli molto più alti, per cui le banche sono ormai obbligate a viaggiare su questa strada del rafforzamento patrimoniale ulteriore, che non terminerà sicuramente con le operazioni che si sono preannunciate in questi giorni. Alaimo, vengo anche da lei. Norvega SGR, poi, al di là delle come dire, conseguenze che abbiamo visto sui titoli in borsa in questi giorni, chiedo anche a lei qual è la valutazione che fa rispetto a tutte queste operazioni preannunciate. Insomma, stanno andando sulla direzione giusta le banche italiane? Ma direi che questa attività di aumento di capitale ha un po' sorpreso me e un po' il mercato in generale, nel timing più che altro. Ci si aspettava magari che gli aumenti di capitale iniziassero quando i tassi avessero iniziato ad essere alzati, come già preannunciato tra l'altro. Sì. Da Trichet giovedì cominciamo subito, esatto, ad aumentare i tassi, esatto, riprendiamo ad aumentare i tassi. E di conseguenza con un aumento della redditività appunto per il settore molto legato al livello dei tassi. Questi sono i tassi più bassi conosciuti dalla fondazione della comunità economica europea. Quindi, diciamo, la sorpresa è stata grande e la reazione del mercato è stata evidente, no? Tra l'altro oggi il nostro mercato sta anche sovraperformando rispetto agli altri mercati europei, nonostante il peso del settore bancario nel nostro indice sia il peso maggiore rispetto a tutti gli altri indici europei. Quindi questo forse oggi dà anche un po' un segnale di come il mercato internazionale non veda poi tanto male le banche italiane in confronto magari è facile, perché in questo momento l'indice delle banche europeo è intorno a meno 1,4, le nostre banche sono in molti casi vicine alla parità. E certo, hanno perso parecchio terreno per le giorni scorsi, quindi hanno ormai già anche digerito gli annunci fatti e formalizzati più o meno da qualche banca, no? Non ritiene Alaimo? Esatto, hanno comunque metabolizzato già, ma il nostro, ecco, volevo aggiungere a quello che diceva il collega, che il nostro forse è un modello di banca retail con un'impostazione diversa e un rischio rendimento diverso rispetto ai principali player europei, che hanno già Core Tier 1 a doppia cifra. E quindi di conseguenza, almeno a mio avviso, è normale che il nostro patrimonio, diciamo il nostro salvadanaio, come diceva lei, sia un po' più piccolino, sia in percentuale inferiore. Sì. Prendiamo meno rischi, e quindi è normale. Il nostro business è diverso in media è diverso e quindi è abbastanza nella natura diversa. Certo. Detto questo, che è un ragionamento sicuramente interessante, però Basilea in ogni caso certi parametri ce le impone e verso quella direzione bisognerà andare. Allora, ci dobbiamo fermare perché abbiamo già la prima pausa e sono anche in ritardo. Poi andremo ad analizzare anche un po' la reazione della borsa rispetto a queste operazioni, quali sono i termini che si conoscono già, quelli che invece potrebbero essere ipotizzabili. Allora, tra pochissimo. Oggi a Salva Danaio abbiamo deciso di affrontare un tema di mercato, per qualcuno forse anche un po' complicato, però siccome il listino di Piazza Affari è molto, come sapete, è composto largamente da titoli bancari, è molto esposto appunto nel settore finanziario, questi titoli bancari si sono mossi molto negli ultimi giorni. Perché? Perché alcuni istituti di credito hanno preannunciato l'intenzione di procedere con degli aumenti di capitale, alcune banche lo stanno decidendo in queste ore, lo sta facendo Intesa San Paolo, qualche banca ha rimandato, lo deciderà, lo farà sapere nei prossimi giorni, per Monte dei Paschi potrebbe essere questione di poco. E allora cosa sta succedendo? Perché le banche stanno facendo queste operazioni straordinarie sul capitale, dei cui contenuti esatti ancora non abbiamo molte notizie, si possono fare delle ipotesi, ma al momento proprio i parametri dettagliati non li abbiamo, sicuramente li avremo prossimamente. E perché soprattutto quando il mercato annuncia un aumento di capitale, questo vale per le banche ma anche per tanti altri settori, la reazione della borsa è sempre molto negativa, perché proprio una richiesta al mercato, una richiesta di nuovi soldi agli azionisti, ma forse la, come dire, spiegazione non è solo così banale. Questa mattina abbiamo appunto due ospiti che ci stanno un po' spiegando e commentando tutto quello che sta accadendo: Marco Sticchi, portfolio manager di Nemesis Asset Management, e Riccardo Alaimo, fund manager di Norvega SGR. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Prima di procedere con le altre domande che io vorrei fare ai nostri ospiti, ne faccio fare una ad un nostro ascoltatore affezionatissimo, Gianni da Varese. Gianni, lo sa che c'era il mio tecnico Fabio Cantadori che mi stava prendendo in giro e mi diceva: fra un po', Gianni, lo dovrete pagare come collaboratore tanti interventi fa. Pronto? Buongiorno. Signorina, grazie mille per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Insomma, le sue riflessioni ci piacciono sempre, ci dica pure. E tanti complimenti anche al vostro collaboratore giornalista Walter Iosi, che è uno dei pochi che sa fare una critica e una previsione sulla situazione economica. Sì, sì. E signor Barisoni, se potete dirgli alla sera di dar più tempo alla borsa, perché i nostri fondi pensione sono investiti là. Oggi glielo dico. Anche lo Standard & Poor's 500, non solo il Dow Jones. Dow Jones non rappresenta il mercato americano. Sì, mi sa che c'ha ragione Fabio, dobbiamo pagare. Gianni, ci dica sulle banche come la pensa. Poi per venire a noi, signorina, senta, io volevo fare questa domanda. Abbiamo le banche in tutta Europa, non solo in Italia, che hanno un core tier 1 molto basso, no? E gli altri alcune hanno dovuto chiedere gli aiuti di Stato per salvarsi, altre, Royal Bank of Scotia è stata addirittura nazionalizzata dall'Inghilterra, no? Abbiamo un debito pubblico nei paesi mediterranei che è spaventoso, PIX o PX. Allora, come fa l'euro a mantenersi a 1,40, 1,41 contro dollaro? Questa è la domanda che volevo fare agli esperti. Oh, grazie santo mille, cielo. Buongiorno. Grazie, non sapevo che volesse andare a parare sul rapporto tra le valute, però insomma chiedo magari un attimo una riflessione volante ai nostri, ospiti, appunto, anche senza essere particolarmente, come dire, approfonditi su questa riflessione, perché so che peraltro le loro competenze sono su tutt'altra materia. Però Sticchi ha ragione, il nostro ascoltatore, lei come valuta, insomma, tutto questo movimento nell'ambito bancario, bilanci pubblici e rapporto fra euro-dollaro? Sì, no, guardi, la domanda mi piace moltissimo. Noi infatti siamo abbastanza coinvolti sul tema delle monete. La risposta, direi in una parola, è trichè. La posizione della Banca Centrale Europea si sta distinguendo veramente per il modo di reagire alla situazione macroeconomica, ed è una posizione opposta a quella della Fed. La Fed è estremamente lassista nel gestire la politica monetaria, la Banca Centrale Europea è molto più conservatrice. Per esempio, è abbastanza sorprendente che nella situazione attuale, in cui il prezzo del petrolio è sopra 120, quindi siamo a livelli storicamente molto alti, e questo crea un problema inflazionistico, sia un problema inflazionistico potenzialmente, sia un problema di crescita, la Banca Centrale Europea sceglie di combattere l'inflazione, si preoccupa di meno del rischio crescita. La Fed ha un atteggiamento opposto, fa una scelta diversa, sceglie di proteggere la crescita e si preoccupa meno dell'inflazione. La conseguenza di questi due opposti modi di vedere la politica monetaria ha un impatto evidentemente sul euro. Il rapporto di cambio, infatti. Ritorniamo invece al tema che abbiamo tracciato dall'inizio della trasmissione e ritorniamo un po' sulle banche. Riccardo Alaimo, allora le chiedo perché quando, questo vale per una banca ma anche per un'altra società quotata, si preannuncia un aumento di capitale, appunto la reazione del mercato è sempre come conseguenza così vistosa in termini negativi, così pesante. Comunque l'obiettivo dell'aumento di capitale, soprattutto nel contesto bancario, è un obiettivo positivo, no? Di rafforzamento del patrimonio, per cui teoricamente, però insomma gli azionisti dicono perché dobbiamo pagare noi? Certo, sicuramente l'effetto immediato che sconta il mercato è un effetto dilutivo sugli utili dell'azienda, diciamo, per parlare in modo piuttosto semplice, la torta viene divisa in più fette e quindi è evidente che quello, l'earning per share, diciamo, l'utile per azione, avendo un universo certo più ampio nell'immediato più basso. Quello che secondo me è importante, su cui è importante focalizzarsi però, è lo scopo per cui vengono fatti questi aumenti, specialmente in questo contesto di difficile, dove comunque un sistema come quello bancario italiano è uscito sostanzialmente vincente, diciamo, rispetto a tanti altri dalla crisi di un uso sconsiderato della leva finanziaria fatta su altri sistemi, in altri sistemi bancari. Diciamo, noi siamo usciti con un sistema molto più tranquillo in precedenza, quindi con una redditività più bassa, siamo usciti in modo abbastanza solido e sulla spinta appunto anche di Draghi stiamo cercando di mantenere questa nostra caratteristica di solidità. Però quello che è importante secondo me è capire di questo aumento di capitale le banche cosa ne dovranno fare, perché ora c'è ancora la situazione è ancora piuttosto nebulosa, sono tutte cose che stanno accadendo in questo momento, quindi certo, è difficile fare. Però essenziale sarà vedere i business plan triennali che le principali banche forniranno nelle prossime settimane. Certo. Perché se l'aumento di capitale sarà utilizzato non per coprire buchi o problemi e pregressi, ma per crescere, magari per linee esterne come potrebbero fare alcune banche anche abbastanza grandi italiane, come può essere la stessa San Paolo, che ha un molto caratterizzata da una presenza forte sul territorio italiano ma poco all'estero, per esempio. Allora a quel punto questo aumento di capitale che anticiperà una politica espansiva e di potenziali aumenti della redditività. Quindi è troppo presto, finché non conosciamo quali sono le intenzioni delle banche dell'utilizzo di questi capitali, non è difficile poter dare un giudizio. Tra l'altro il caso di Banca Intesa è molto interessante, perché diciamo che fino a poco tempo fa l'ipotesi dell'aumento di capitale era stata completamente smentita. Per Banca Intesa si diceva che la sua strategia di crescita anche futura si sarebbe focalizzata e concentrata soprattutto nella vendita di attività non strategiche. Anche l'obiettivo appunto del rafforzamento patrimoniale, si diceva, sarebbe passata fondamentalmente attraverso questa strada, proprio per evitare gli aumenti. Invece a sorpresa appunto per l'aumento di capitale anche si passerà. Marco Sticchi, chiedo a lei quali altre alternative ci sono di rafforzamento del capitale per le banche, perché le banche per esempio fanno anche grande attività di emissione di obbligazioni, di corporate bond, quindi ecco, quella è un'altra alternativa, oppure anche rispetto a questo non so, bisogna valutare la reazione del mercato. Il mercato che cosa preferisce, l'aumento di capitale o il continuare ad emettere per esempio obbligazioni bancarie? Quello che conta per rispetto al core tier 1, come si diceva prima, il capitale piuttosto che le semplici obbligazioni. Tuttavia bisogna dire che le banche in questo periodo stanno facendo entrambe le cose, stanno cercando di aumentare il capitale e stanno anche emettendo bonds per aumentare il, le fonti di finanziamento. Certo. Ci sarebbe un'osservazione da fare sui bonds subordinati, probabilmente, perché... Che cosa sono, Sticchi? Sì, ecco, i bonds emessi dalle banche si dividono tra senior e subordinati. Mm-hmm. I subordinati sono quelli che, se hanno certe caratteristiche, possono contare dal punto di vista della capitalizzazione, del core tier one. Mm-hmm. Ora, queste caratteristiche sono caratteristiche nuove che vengono introdotte adesso. Abbiamo visto questo tipo di bonds solo in alcune situazioni. Che cosa sono i coco bond? Come? I coco bond, quelli di cui ho letto in questi giorni sui giornali, queste obbligazioni, esatto, convertibili in azioni, ecco. Sì, coco sta per contingent convertibles, cioè titoli che si possono convertire in azioni se succede una particolare condizione, e questa particolare condizione è il core tier 1 che scende sotto un livello critico. Questi sono titoli che si trasformano in azioni, quindi sono una specie di ibrido tra obbligazioni ed azioni. Non li abbiamo ancora visti in Italia, li abbiamo visti in altri paesi come da parte delle banche svizzere e UK e britanniche, che in generale sono più avanti nel contesto europeo in in questo processo di adeguamento ai criteri di Basilea 3. Mm-hmm. Un'altra osservazione si può fare è che tutto questo cambiamento della struttura del capitale delle banche ha implicazioni positive non per le azioni, ma invece per i vecchi bonds subordinati, che le banche saranno incentivate a ricomprare anticipatamente. Questo è una dinamica che sostiene il prezzo di questi bonds. Ecco, una curiosità, Sticchi, perché poi dobbiamo andare in pausa, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Questi coco bond, che ancora non sono in circolazione in Italia, ma si sono avventurate su questa strada solo le banche svizzere e quelle britanniche, come lei ci spiegava, finiscono anche tra i piccoli risparmiatori, tanto per capire, o sono solamente strumenti rivolti al mercato degli investitori istituzionali? Nel caso del penso che dipenda dalle situazioni. L'ultimo coco che abbiamo visto, quello di Credit Suisse, era volto anche ai risparmiatori, oltre che agli istituzionali. Tanto per capire, insomma, se dovessero arrivare, siamo un po' pronti a tutto. A tra pochissimo. Gli aumenti di capitale oggi a salvadanaio, soprattutto delle banche. Buddy, un altro affezionatissimo ascoltatore, ci scrive, oltre che più o meno anche un collega giornalista, perché scrive su un settimanale economico. Gli aumenti di capitale, quando non sono rivolti a crescita ed espansione, sono sempre penalizzati dal mercato, quindi una spiegazione anche al tema che affrontavamo prima, perché quando si annunciano aumenti di capitale il mercato bastone anche pesantemente, come è accaduto per esempio per UbiBanca, che quando ha preannunciato l'aumento di capitale da 1 miliardo, poi tra l'altro non è neanche una cifra esorbitante rispetto a tante altre manovre che si stanno mettendo in campo, ha perso il 12-14% in una sola giornata. Quali altri aumenti di capitale sono pronti? Sono sulla rampa di lancio, oggi lo preannuncia Banca Intesa, da circa 5 miliardi, peraltro questo sarà destinato proprio anche ad attività di sviluppo della banca. Viene presentato contestualmente anche il piano per la crescita del gruppo bancario. UniCredit non ha ancora fatto sapere nulla, probabilmente non farà nessun tipo di operazione di questo tipo. La Popolare di Milano ha avuto una situazione abbastanza strana, perché si era un po' sondato il terreno su una possibile manovra da 600 milioni di euro, che peraltro è la cifra che serve per restituire i Tremonti Bond, e poi insomma per il presidente Ponzellini una secca reazione da parte degli azionisti, che hanno detto no, guarda, è meglio che su questa strada non procedi. E poi che cos'altro abbiamo? Monte dei Paschi, che potrebbe varare un'operazione da 2 miliardi, anche in questo caso finalizzata alla restituzione dei Tremonti Bond. Il Banco Popolare, che ha già fatto un aumento di capitale da 2 miliardi rimborsando già quasi 1,5 miliardi appunto di Tremonti Bond. Questo è il quadro in cui ci stiamo muovendo e i titoli stanno sulle montagne russe. E allora, tra l'altro, operazioni che non potrebbero neanche essere le ultime. Sto anche cercando di capire un po' le domande che vogliono fare gli ascoltatori questa mattina. C'è chi ci chiede i dividendi come delle banche, come sono quest'anno. Un ascoltatore ci chiede UniCredit, io sono andata a ripescarlo, quest'anno Piazza Cordusi dovrebbe distribuire una cedola di 0,03 centesimi di euro per azione. Alaimo, qualche altro commento insomma su tutto questo fermento che stiamo vedendo? A questo punto, anche in virtù del fatto che i titoli bancari, annunciando l'aumento di capitale, sono scesi parecchio, in qualche maniera ritiene le valutazioni in questa fase interessanti? Magari potrebbero essere anche qualche occasione d'acquisto? E come dicevo prima, bisogna non farsi prendere troppo dall'entusiasmo sì, e vedere cosa vogliono fare le banche, perché comunque il mercato ha dato un giudizio negativo e il mercato magari accentua determinati accentua con i suoi movimenti i motivi reali che stanno sotto il movimento. Quindi il mercato per ora le sta punendo, bisogna vedere se appunto le banche riescano a dimostrare l'utilità di questi aumenti di capitale e l'utilizzo che ne verrà fatto. E poi invece per quanto riguarda gli utili, come chiedeva l'ascoltatore, credo che si potrebbe assistere sempre in ottica di miglioramento dei capital ratio a una politica dei dividendi meno generosa da qui in avanti, all'insegna di un aumento delle riserve, sempre appunto di far ingrassare un po' il salvadanaio, no? E quindi questo è abbastanza una conseguenza abbastanza importante per un risparmiatore o per un azionista come le fondazioni, ora che sono sicuramente centrali in questo frangente, esatto, insomma, in questa fase. Sì. Marco Sticchi, torno anche a lei. Tra l'altro stiamo già concludendo la nostra trasmissione, abbiamo ancora un paio di minuti. Di che cosa ha bisogno, secondo lei, il mercato per essere convinto della validità di queste operazioni che le banche stanno mettendo in campo? Ce lo diceva anche abbastanza chiaramente Alaimo, l'importante è che si definisca bene a che cosa è finalizzato l'aumento di capitale, ma insomma mi pare che il contorno della finalità dell'operazione sia abbastanza chiaro. Il mercato vuole qualcosa di più? Termini di trasparenza e chiarezza? Sì, direi che un evento importante potrebbe essere gli stress test, quelli di quest'anno, che verranno annunciati a giugno. Il mercato si focalizzerà su quell'evento e le banche che riusciranno a superare la barra di questo stress test saranno viste almeno temporaneamente positivamente dal mercato. In realtà una cosa che bisogna dire è che questa corsa all'aumento del capitale c'è in Italia e anche la ragione è che bisogna farlo prima che gli stress test vengano annunciati a giugno. Avrebbe un effetto più deleterio sul prezzo dell'azione se la banca dovesse ricorrere all'aumento di capitale dopo che lo stress test ha messo in evidenza una inadeguatezza del capitale. Meglio farlo prima, sempre. Certo. A proposito di stress test, stiamo andando verso la conclusione, però un minutino riusciamo a ricavarcelo. Marco Sticchi, per ricordare ai nostri ascoltatori in che cosa consiste questa attività di monitoraggio sui patrimoni delle banche, appunto messa in campo dalle autorità finanziarie europee, che cosa vogliono andare a verificare effettivamente, ricordando anche tutte le polemiche che hanno contornato un po' la comunicazione dei risultati degli stress test condotti sulle banche europee la scorsa estate. Sì, lo stress test vuole essere una forma di coordinamento dell'attività di regolamentazione che le banche centrali nazionali dovrebbero fare continuamente. Nel caso dell'anno scorso, di quest'anno, viene fatto a livello europeo perché la crisi che stiamo attraversando è una crisi del debito europeo a causa delle notevoli interconnessioni tra i vari sistemi bancari. E allora lo scopo è quello di fare degli scenari di, per esempio, recessione oppure di aumento dei tassi oppure di crollo del mercato azionario o di crollo del mercato immobiliare per vedere quale sarebbe l'impatto sui numeri delle banche. Perfetto, allora intanto stavo guardando un ascoltatore che purtroppo non riusciamo a fare in tempo ad intervenire, che ci racconta che aveva comprato Coco Bond per 350.000 euro convertibili dopo 2 anni in azioni consigli. Mi sarebbe piaciuto veramente capire che tipo di sottoscrizione aveva fatto, se bancaria, ma abbiamo già detto appunto che questi strumenti ancora non sono in circolazione nel nostro paese. Magari Vincenzo, se ci può scrivere all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, perché mi piacerebbe proprio capire effettivamente che tipo di investimento ha fatto. Noi adesso ci dobbiamo fermare perché abbiamo l'ultimo appuntamento con la segreteria telefonica di Salvadanaio in collaborazione con Assogestioni e il Salone dei Risparmi, un servizio che abbiamo attivato per rispondere alle vostre domande in tema di risparmio gestito in vista del Salone dei Risparmi che inizia domani a Milano all'Università Bocconi. E allora sentiamo un po' l'ultima domanda che abbiamo scelto. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Buongiorno Salvadanaio, io volevo fare una domanda un po' banale, però i fondi pensione sono la stessa cosa dei fondi comuni di investimento oppure no? Insomma, possono essere paragonati in qualche modo oppure no? Io vi ringrazio, buona giornata. I fondi pensione sono particolari fondi comuni destinati alla pensione complementare, ovvero quella che dovrà integrare la pensione erogata dagli enti pensionistici obbligatori, come INPS e INPDAP. Si distinguono dai normali fondi comuni non solo per la loro finalità previdenziale, ma anche perché hanno un'autorità di vigilanza ad hoc, la COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Rispetto ai fondi comuni, inoltre, sono meno tassati. Il fisco preleva l'11% sui guadagni, anziché il 12,5% dei fondi comuni, e ci sono limiti al disinvestimento, che può avvenire solo al momento del pensionamento e, nella maggior parte dei casi, sotto forma di rendita integrativa alla pensione. Solo in situazioni particolari è possibile disinvestire anche una parte consistente. Le domande del risparmio. E noi dedicheremo la puntata di domani di Salvadanaio ad uno proprio all'approfondimento sulla inaugurazione del Salone del Risparmio. Oggi sì, qualche ascoltatore dice: avete affrontato un tema un po' complesso. È vero, però ci sono molti piccoli azionisti che hanno in portafoglio titoli del settore bancario a cui era sfuggita l'ondata di notizie che aveva provocato appunto la forte riduzione delle quotazioni in borsa di questi titoli nelle ultime settimane. Per cui vi abbiamo un po' spiegato cosa sta accadendo, cosa sono gli aumenti di capitale che partiranno. Poi, quando ne conosceremo le condizioni dettagliate di ogni operazione, vi spiegheremo anche cosa deve fare un piccolo azionista appunto per sottoscrivere queste operazioni o meno, se non lo vuole fare. Io intanto ringrazio Marco Sticchi e Riccardo Alaimo, i nostri ospiti di questa mattina, per essere stati con noi. Ringrazio Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Rudy Cantadori appunto per l'assistenza tecnica. Salvadanaio torna domani col Salone del Risparmio. Buona giornata a tutti.